è dovuto sullo stabilimento di Crevacore, che è produttivo, ha un calo dell'attività produttiva prevista temporanea fino a gennaio 2020 per un massimo di 260 lavoratori. Su Bologna è prevista per 8 settimane, l'azienda ha sempre aperto la cassa sia a Bologna che a Crevacore a 0 ore, a Bologna per 630 lavoratori, poi le modalità con cui verrà applicata la cassa sono da definire in incontri successivi con l'esame congiunto. Ci auguriamo che sia non cassa a 0 ore, primo punto. È praticamente quasi tutta la forza lavoro. Quasi tutta la forza lavoro, sì, sono escluse una cinquantina di persone a Crevalcore e 150 a Bologna che lavorano nel reparto del motore elettrico, uffici, progettazione e prototipazione del motore elettrico. Accanto a questa cassa integrazione non sono stati rinnovati i contratti, appunto, di chi ha contratti precari, diciamo? Sì, a Crevalcore sì, non sono stati rinnovati già in passato, e poi l'apertura della cassa integrazione porta anche a fare decadere i contratti di consulenza, gli stas, appunto contratti somministrati, eccetera eccetera. Poco degli straordinari, sì. Ovviamente. Pochi mesi fa in realtà c'è stato un passaggio di proprietà, pensi che possa dipendere anche da diciamo che sia originato lì il problema? Ma da quando abbiamo avuto il passaggio proprietario, quindi da inizio maggio, si è accentuata, dato che il proprietario è un fondo finanziario statunitense, si è accentuata il controllo sui conti, sul bilancio trimestrale, con una crescente politica di riduzione dei costi, prima mirata allo smaltimento delle ferie e le chiusure collettive, su cui l'azienda aveva detto che sarebbero stati sufficienti per evitare la cassa integrazione. Poi una seconda fase di incentivazioni all'esodo, persone vicino alla pensione o anche lontano alla pensione a cui sono state fatte proposte di licenziamento incentivato. Tutto questo sempre al fine di evitare la cassa, ma evidentemente non è stato sufficiente, perché è stata aperta la cassa a Bologna, che è il centro di R&D, parliamo di quindi in maggior parte di tecnici ingegneri, di impiegati, e questo è particolarmente grave per le prospettive future. Quindi temiamo che questa apertura della cassa integrazione siano solo le prime nuvole di una tempesta che sta arrivando, eh? Una riorganizzazione più vasta, una ristrutturazione più vasta che colpisce tutto il mondo della componentistica nella transizione verso il motore elettrico. E temiamo esuberi, e su questo chiediamo un confronto all'azienda con le istituzioni locali, a livello regionale, che si affiancheranno a un tavolo nazionale sull'automotive che la FIOM ha richiesto, per chiedere all'azienda un piano di investimenti su Bologna, cosa vuol fare la Marelli di Bologna e di Crevalcore, e garanzie su, appunto, la stabilità occupazionale, cosa che l'azienda aveva dichiarato appena era succeduto il cambio societario. Aveva garantito che non ci sarebbero state ripercussioni sull'occupazione, invece ci sono stati, come, perché il turnover non è stato sostituito, sono stati fatti incentivi volontari alle dimissioni, quindi l'organico è in costante calo. Appunto, tu già dicevi, volete coinvolgere anche le istituzioni, forse perché appunto il tema della automotive è un tema che va affrontato nel complesso? Certo, è un tema complessivo che riguarda la componentistica e riguarda il settore, ovviamente, automotive. È un problema nazionale ed è un problema, possiamo dire, europeo.